Ecco, vorrei parlare delle condizioni di felicità. Ecco, nella nostra cultura siamo assolutamente abituati a pensare che per essere felici ci deve essere qualche motivo. Quindi che ci devono essere delle condizioni, altrimenti è normale essere insoddisfatti, essere un po' tristi, un po' depressi, imbronciati. Bene. Questa è veramente un'illusione che è dentro la nostra cultura. Ho sentito adesso un'amica psicologa a telefono, la quale ha portato la bambina a scuola, prima elementare, per la prima volta, e avendo molta esperienza con i bambini e con gli adolescenti, ha pensato di presentare la scuola in questo modo a sua figlia. Gli ha detto: guarda, il fatto di andare a scuola è un grande privilegio. Nel mondo solo una parte dei bambini, minima, va a scuola, gli altri alla tua età vanno a lavorare. Quindi ti dirò che io non sarò pronta a darti dei premi perché vai a scuola. Il premio è la scuola stessa. Questo è un privilegio che tu stai avendo. In questo modo, questa amica ha mostrata alla bambina un dato di realtà che è molto importante avere, perché in realtà i nostri ragazzi si abituano ad avere tutto senza sapere che quel tutto che hanno costa ad altre popolazioni, ad altri luoghi del mondo, il fatto che molti loro coetanei, anziché permettersi di andare in giro a spassarsela, in realtà lavorano 10-12 ore al giorno. Okay. Va bene, questo per dire come nella nostra cultura ci siamo abituati all'oblio, alla dimenticanza. Più o meno queste cose le sappiamo tutti, però in realtà ce ne dimentichiamo. E ho molto apprezzato il fatto che questa amica psicologa abbia detto cose di questo tipo a sua figlia di 6 anni, anziché dire: mi raccomando, far bene, poi così avrai questi premi e quest'altro. Il premio è già la scuola. Ecco. Se i genitori facessero si comportassero così con i bambini, probabilmente il mondo cambierebbe. Allora, dicevo che nella nostra cultura la felicità di fondo, e sto parlando della felicità di fondo, la gioia di fondo di vivere, è considerata qualcosa che ci può essere solo se si verificano determinate condizioni. Tra queste condizioni, sicuramente ce n'è una fondamentale, che si realizzino i nostri desideri. Ecco, se voglio una casa più grande, beh, se non ce l'ho, finché non ce l'ho, sono in tensione, certo, non sono contento, oppure finché non trovo la donna giusta, finché non trovo la compagna, insomma, finché non mi realizzo nella vita come professionista, allora, beh, soddisfazione, felicità e così via. Quindi tra le condizioni di felicità la realizzazione dei desideri. Poi ce n'è un'altra che tipicamente è quella più neurotica, che è le condizioni di amabilità. Allora, siamo allevati in contesti di amore condizionato, in cui ci si insegna che possiamo essere amati se facciamo determinate cose, se ci comportiamo in un certo modo. Chi più chi meno, nelle famiglie, nella scuola avviene questo. Che cosa apprendiamo quindi? Che noi non abbiamo un diritto intrinseco ad essere contenti, e stare in contesti d'amore. No, noi possiamo ricevere amore solo se rispettiamo determinate condizioni. Ora, siccome l'amore è importante come l'aria che respiriamo, è chiaro che queste condizioni diventano per noi dei doveri. Diventano dei doveri da soddisfare assolutamente. Diventano delle leggi imperative. Ecco. E cosa succede? Quindi che al nostro interno, per farle rispettare, creiamo una giurisdizione, creiamo un giudice. Una pubblica accusa, un giudice che ci sottopongono continuamente la verifica se rispettiamo queste condizioni, queste leggi. E se non le rispettiamo, se il giudice ritiene che queste leggi non le rispettiamo, emanerà delle sentenze di condanna, sentenze che sono delle vere e proprie pene. Le pene sono attraverso le emozioni negative che possiamo provare. Appunto, la tristezza, disperazione, rabbia, depressione e così via. Allora, Ciò di cui sto parlando è che, senza che ce ne rendiamo conto, abbiamo creato un mondo dove l'amore incondizionato è praticamente inesistente e dove invece vige l'amore condizionato. Io ti voglio bene, io ti posso amare e tu se lo meriti, cioè se fai questo o quest'altro. Ok, allora che cosa succede? Se un bisogno fondamentale, come quello dell'amore incondizionato, che è necessario come l'acqua, come l'aria, come il cibo, non viene soddisfatto, ecco qui è interessante uno dei simboli alfa che usiamo, lo bisogno fondamentale, freccia, barriera, non può passare, questo bisogno non viene passato. Allora non è che si estingue, tutt'altro, il bisogno si perverte. Cioè il bisogno fondamentale d'amore incondizionato si trasforma in desiderio, in proliferare di desideri. Ecco. La nostra è una cultura in cui i desideri sono continuamente pompati, sono i nostri idoli, sono quelli che mettiamo sull'altare. E che possono essere anche desideri apparentemente nobili, come il desiderio di realizzarsi, sono professionista, devo potermi realizzare qui, il desiderio di conoscenza, devo poter conoscere questo, il desiderio di titoli, il desiderio di conoscimenti e così via. Quindi, in definitiva, noi finiamo per dipendere sempre da che cosa? Dal giudizio di altri, dal giudizio nostro e dalla realizzazione dei desideri. Ma queste dipendenze sono forme di schiavitù. Quindi quello che sto dicendo è che non siamo liberi, manca la libertà. Spesso utilizziamo in Aleph questa distinzione tra grande mente e piccola mente. Dove si forma una grande mente? Si forma in un contesto di amore incondizionato. Allora se c'è amore incondizionato, i valori dell'essere, i valori dell'anima, come volete, vogliamo chiamarli, i bisogni fondamentali vengono soddisfatti. Ne segue che in un contesto del genere non c'è proliferazione di desideri, perché la persona, il bambino, sta già bene così. Quindi pochi desideri e comunque questi desideri non c'è attaccamento. Chi vive in un contesto di amore incondizionato acquisisce questa capacità di amore incondizionato di chi? Di sé e degli altri. Quindi naturalmente sviluppa un fondo di felicità dentro di sé, che non si estinguerà mai, qualunque cosa accada. E naturalmente diventerà una persona ordinata, disciplinata in senso sano, cioè che farà le cose che ci sono da fare senza sentirsi costretto, perché non sente costrizioni. Quindi sarà una persona che, non essendo sentendosi prigioniera, sentendosi libera, non svilupperà senso di captivitas, cioè di prigionia, quindi cattiveria, cioè cattiveria con se stesso e con gli altri, che poi finisce regolarmente nell'ombra. Quindi diventa una persona guidata dalla libertà, creatività e intelligenza. Cosa succede invece in un contesto dove l'amore incondizionato è assente? Ma c'è solo l'amore condizionato. I valori dell'essere fondamentali non vengono soddisfatti, questo bisogno fondamentale, e allora, come dicevo prima, non è che questo bisogno si estingue, ma si perverte in che cosa? In desideri, in bisogni compensativi. E la persona quindi si riempie di condizioni per sentirsi bene e quindi di doverizzazioni, di prigionia, cioè è prigionato da questi doveri. E naturalmente ogni volta che c'è la prigionia c'è dall'altra parte la ribellione. E quindi nasce la pigrizia, l'indisciplina e così via. Una persona che è allenata così vive prevalentemente nella piccola mente, dove non c'è libertà, non c'è creatività e c'è poca intelligenza. Quindi la grande mente è una mente con una visione ampia, che vede il mondo così com'è. La piccola mente è una visione molto molto ristretta. Quindi la piccola mente porta come conseguenza ad avere piccole relazioni, piccole cose nella vita, cioè si fa una vita piccola, una vita per certi aspetti meschina. Ecco, la grande mente è invece un grande spazio di libertà e creatività.